La prima prova per capire che si è entrati ufficialmente nell'era della gabbia viene dalle orecchie, perché non c'è più né il rumore del martello che anche per tutta la notte ha sagomato in queste notti le barriere, né il rumore del traffico. La zona rossa già da questa mattina alle 8 è percorsa esclusivamente dalle auto, quelle auto con il lampeggiante blu che corrono, si fermano, cambiano direzione, invertono marcia, perché si tratta in molti casi di poliziotti, carabinieri, finanzieri, diciamo così, forestieri, che ogni tanto si perdono e chiedono informazioni ai colleghi e ripartono poi sgommando. I cartelli luminosi lungo le arterie principali di Genova fanno scorrere messaggi minacciosi del tipo: i residenti in zona rossa spostino le auto. Anche nell'era di internet e del cyberspazio i movimenti appiccicano manifesti e tracciano scritte sui muri. Così, in attesa della manifestazione dei migranti di domani e con la polizia onnipresente di oggi, un manifesto recita: sicurezza è accoglienza e solidarietà, su una foto di manifestanti di tutti i colori e con la firma dei giuristi democratici, di Magistratura Democratica, degli avvocati europei per i diritti, eccetera. Meno scritto, ma che colpisce gli occhi, è quello con una dolente donna africana che allatta al seno un famelico bambino bianco, titolato seccamente «Non siamo ancora sazi», senza punto interrogativo, firmato dall'associazione Cancella il Debito. I partiti sono invece un po' più smorti e un po' più ripetitivi. I Verdi su fondo bianco ci raccontano che un altro mondo è possibile e che bisogna globalizzare i diritti. E anche Rifondazione sotto Stop G8 punta all'alternativa, sempre con un altro mondo è possibile. Sull'autobus invece torna prepotente la Genova sul serio blindata di oggi, sotto forma di un adesivo triangolare a fondo arancione: chiuso il metrò, chiusa l'autostrada, chiuso l'aeroporto, chiuse le stazioni, chiuso il porto, chiusa la sopraelevata, niente autobus, niente mercati, niente spiagge, puntini puntini, niente vita. Poi c'è chi preferisce il graffito sul muro come il sintetico 8 grandi maiali, tracciato a grandi caratteri da una mano anonima, o lo striscione che attacca fatto pendere dal ponte monumentale a pochi passi da Palazzo Ducale: Stop World Bank, in inglese, come si conviene, perché anche i giornalisti di CNN capiscano. E i cartelli appesi allo stadio Carlini, dove stanno le tute bianche: Welcome disobbedienti, ripetuto in tutte le lingue e persino in caratteri cirillici. O il più modesto ma significativo piccolo cartello appeso da un negoziante: noi siamo aperti, in un mare di saracinesche chiuse e serrande abbassate. Infine uno sberleffo stamane, in un carrugio del centro storico al confine tra zona rossa e zona gialla, una fila di panni stesi ad asciugare, comprese le umili mutande che tanto urtano il cavaliere. Alla vigilia della sua partenza per il G8, Bush illustra alla Banca Mondiale la sua visione del mondo nell'era della globalizzazione. La libertà porta con sé grandi responsabilità, ha detto il presidente americano, sostenendo che la prosperità richiede un mondo stabile e pacifico e che gli Stati Uniti sono pronti a fare la loro parte in tal senso. Bush ha quindi anticipato che durante il suo soggiorno in Europa intende promuovere tre obiettivi: una politica economica incentrata sulla crescita della produttività e la riduzione della tassazione, una maggiore libertà di commercio a livello mondiale e una riforma dell'assistenza offerta dai paesi più ricchi e dalle organizzazioni internazionali al terzo mondo. Two or three days ago there was an article in the Financial Times, which is the well-known sort of establishment economic newspaper. Due o tre giorni fa c'era un articolo sul Financial Times, che è il ben noto giornale economico inglese, in cui si dice che la spiegazione della recessione in Singapore e a Taiwan era l'eccessiva dipendenza dalle esportazioni. Questi due paesi contavano troppo sulla crescita economica americana, si fidavano troppo del mercato americano ad alta tecnologia. E adesso che l'economia americana sta entrando in una fase di recessione, questo ha un'immediata ricaduta sulle economie di Taiwan e di Singapore. Quindi l'apertura dei mercati, le esportazioni, aumentano anche i rischi di vulnerabilità delle economie. Aumenta la dipendenza nei confronti dei mercati internazionali. La salute dei sistemi globali è assolutamente incerta, dipende al momento dall'economia americana, che è l'acquirente finale per tutti i beni delle industrie mondiali. E nel momento in cui l'economia mondiale comincia a rallentare, questo ha un immediato e cattivo risultato sulle economie locali. Es una palabra que está muy maltratada y muy bastardeada, ¿no? Più che di diritti umani, voglio parlare qui a Genova del diritto alla vita, del diritto alla dignità. Quando si uccide, quando attraverso precisi piani economici si provoca la morte di migliaia di bambini, siamo di fronte alla violazione del diritto assoluto, quello di vivere. Oggi hai detto che il sistema economico che vuole le dittature in Latino America uccise i vostri figli. E hai detto anche che oggi stiamo combattendo contro gli stessi nemici di allora. Sta assolutamente vigente. Antes necesitaron en Latinoamérica muchas balas. È lo stesso sistema economico. A quei tempi subimmo molte torture, moltissimi omicidi, sadismo. Oggi l'attacco è più sottile, si uccide con le pallottole, ma ancora di più con la fame, le malattie legate alla povertà. E sembrano questi ultimi delitti che non hanno colpevole. Oggi non viene detto chi sono i responsabili delle politiche che generano fame, povertà e emarginazione. Stanco? È abbastanza. Inarrestabile, com'è? Andreste avanti ancora, inarrestabili, no? Pedalare, adesso mi fermerei. Siamo un po' stanchi, sei dovuto fare il passo dei giovi oggi. Ma tu sei abituato per andare in bici? No, mica tanto, mi sono messo in sella per prepararmi al bici G8. È stata dura, quindi? È stato bellissimo, siamo stanchi, però è stato veramente bello. Senti, ti ricordi qualche episodio, qualche momento particolare? Beh, l'accoglienza in ogni città dove c'era sempre un sacco di gente che ci faceva vedere tutta la loro solidarietà. Contentissimo, siamo riusciti a strappare anche il cavalcavia ed è veramente un successone. Questo bici G8 partito da Lecco ormai 4 giorni fa è veramente la mia contentezza, visto che sono anche l'organizzatore, davvero grandissima. Senti, qual è stata la sensazione quando siete entrati in questa piazza? Un'accoglienza veramente come in tutte le piazze dove siamo stati, accoglienza grandissima, 1000 applausi, si vede che proprio la bicicletta è qualcosa di veramente grande. L'istruzione, tanta felicità, siamo contenti, è stata dura, ci siamo divertiti tantissimo, la gente è fantastica, ci hanno accolto tutti in tutte le tappe, con affetto, con bevande, frutta fresca. Il questore di Genova ha vietato il corteo delle tute bianche che avevano chiesto di raggiungere la centralissima via 20 settembre attraverso Piazza Verdi. Ha negato anche Piazza dell'Annunziata e Piazza Marsala per le manifestazioni sempre della giornata di venerdì 20 luglio perché è troppo vicine alla zona rossa. Ha autorizzato invece come piazze tematiche Piazza Manin, Piazza Dante, Paolo Danovi, Carignano, Villa e Zerbino. Il corteo dei migranti domani potrà raggiungere Piazza Martin Luther King e parte però molto vicino alla zona rossa. Al momento lo stadio appare circondato dalla polizia. Adesso si sono spostati dall'ingresso dopo che i ragazzi si sono messi proprio davanti ai cancelli e sembra che, a quanto dicono, arriverà una delegazione di, appunto, come dicono all'altoparlante, di 4 Digos, entreranno nello stadio e verranno accompagnati dentro dai ragazzi a guardare quelle che è il materiale che verrà utilizzato durante la manifestazione. La star della giornata è stato Ronto Douglas, un attivista, un avvocato nigeriano che ha difeso Ken Saro-Wiwa, che era stato giustiziato dalle autorità nigeriane proprio per la sua opposizione alla Shell. Ronto Douglas era stato bloccato ad Amsterdam perché, dicevano le autorità, non aveva soldi sufficienti per soggiornare in Italia. Gli amici gli hanno trovato $1,500, Douglas è potuto venire e raccontare le attività, questa volta dell'AGIP in Nigeria. Any group encouraged AGIP. Il gruppo ENI ha incoraggiato l'AGIP a essere parte di un piano ben progettato e sistematico di attacco alle nostre genti. Voglio essere chiaro, parlo dell'assassinio di persone in comunità come Okeberi, Okibene, Biu, Obama e altre ancora. Queste comunità sono state soggette ad attacchi armati dell'AGIP, sostenuti dallo Stato nigeriano, che ha portato a molte morti. AGIP, un'azienda di partecipazione statale, può essere coinvolta in azioni di questo tipo? Davvero non capisco. Dopo la morte di Ken Saro-Wiwa, le uccisioni sono continuate, le violenze sull'ecologia sono continuate, la militarizzazione della società è continuata. Questa non è libertà, questa è oppressione. Ronto Douglas, ci può dire qualcosa di più dell'inquinamento nel delta del Niger? Hai in mente l'inquinamento provocato dalla petroliera Exxon Valdez in Alaska? Beh, nel delta del Niger negli ultimi 10 anni c'è stato un inquinamento di 10 volte superiore rispetto a quel disastro. Se questo inquinamento avvenisse in America o in Italia, ci sarebbe un grande scandalo, dato che succede nel mio cortile, a nessuno importa. My backyard, nobody cares.